little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. Melog di Gianluca Nicoletti. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside. Se per assurdo il Colossal che stiamo per vedere fosse stato proiettato ai tempi nei quali è ambientato, non ci sarebbe stato nulla di strano. Infatti, a quel tempo la considerazione del prossimo, la morale, i costumi non avevano percorso 2000 anni di storia. Il necessario bollino rosso, invece, che vedremo nel corso della proiezione, non ci sarebbe stato. Geniale la giacobizzazione dello telefilm Rome, che al di là di tutte le aspettative è un grande colosso dell'HBO, della BBC, che ha avuto un grandissimo successo negli Stati Uniti, adesso arriva in Italia un flop totale, fa il 10% come dice Di Pollina, oggi si sta pensando forse di spostarlo in seconda serata, forse il problema è proprio di dover costringere per la TV generalista uno sceneggiato che era meraviglioso, che invece era fatto per un pubblico abbastanza scelto. Uno dei problemi probabilmente sono stati quelli di metterci Giacobbo all'inizio, con il suo triste giubbottino, con il bavero alzato, con il gileino di lana e la cravatta che gira attraverso la scenografia virtuale dell'antica Roma. Qualcuno sarà venuto i brividi, pensare a uno dei tanti programmi di resumazione fantascientifica della storia e non l'ha guardato. In realtà era bellissimo, Roma noi l'abbiamo guardato in versione originale sottotitolata che c'era stata fornita, era veramente una grande soap, era divertentissimo, era una storia di amori e di furori ambientata all'antica Roma, non c'era la necessità di una ricostruzione storica esatta, perché Luciano Canfora sul Corriere della Sera di ieri dice che assolutamente è un esempio insigne di disinformazione storica, divulgare errori è peggio che si possa fare, dice Canfora, e segna alcuni punti in cui c'è stato un oltraggio vero alla storia, ma questo non era importante. Roma era bello proprio perché era la collocazione di amori, di passioni, di lussurie estreme, vedere le due matrone romane e che si contendono l'amore di Cesare, l'una regala l'altra uno schiavo superdotato, con l'appendice siffredica tutta infiocchettata, piena di fiori e di ghirlande, una scena meravigliosa, è stata tagliata. Non deve essere vista questa cosa, che fa parte comunque del pathos della vicenda, perché? Perché viene mandato in prima serata, e in prima serata ci sono le mamme del Mogio che guardano e tagliano. Il legionario Tito Pullo si faccia avanti! Tito Pullo! Quando i coraggiosi della tredicesima hanno affrontato i mille di Pompeo nel foro e salvato il tribuno, è stato il legionario Tito Pullo a far scorrere... Vi faccio sentire soltanto la differenza, che poi di questo vorrò parlare in seconda parte. Questo era Rome, sentito in italiano, doppiato e raccontato. Sentite la differenza di pathos, la differenza di spessore, quanto era più avvincente, anche se poi non necessariamente tutti capiranno tutte le parole, la versione originale. Here's 500 denari! Very grateful, sir. Are you with me, Titus Pullo? Will you come with me to Rome? Yes. Yes, sir. Certainly. Titus Pullo is with me. And you? Are you with me? Sulle urla di trionfo dei romani che stanno per accompagnare Cesare alla riconquista di Roma, ci lasciamo per un minuto per le informazioni sul traffico. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. Già in prima parte abbiamo ascoltato la differenza che c'è fra l'ascoltare uno sceneggiato nella lingua originale e sentirlo poi doppiato in italiano. Già vi abbiamo detto che avevamo avuto modo noi di guardare la serie Rome nella sua edizione originale, aiutandoci anche con della sottotitolatura che era stata trovata gratuitamente in rete. In rete ci sono persone che sottotitolano tutti gli sceneggiati più noti, più frequentati dal pubblico italiano, addirittura anticipano le serie. Ci siamo soffermati più volte sul fatto quanto l'immaginario comune ormai sia contaminato da degli stimoli che galleggiano al di là della volontà di programmarli da parte delle reti televisive e di proporli nei propri palinsesti, insomma ci sono, da qualche parte chi sa sa andarli a prendere e non sempre la affabilità con la lingua originale tale da poterli godere al pieno di tutte le sfumature dei dialoghi e c'è chi provvede sottotitolandoli. Una di queste persone è Alessio, anzi Alessio è il più noto in Italia. Alessio, buongiorno. Buongiorno. Lei si occupa in un suo sito particolare di questa operazione che sarebbe una professione in realtà che le procurerebbe un buon guadagno, ma lei lo fa gratuitamente per il solo piacere di mettere a disposizione del pubblico italiano i sottotitoli delle serie americane, o sbaglio? No, no, non sbaglio assolutamente. Il mio è un grande hobby che è qualche anno che faccio, ma niente soldi. Spieghiamo perché non tutti gli ascoltatori hanno familiarità con i mezzi informatici. Se io volessi, se avessi già a disposizione, diciamo, la versione americana di uno sceneggiato noto, non so, Lost, ad esempio, che sta andando adesso in Italia, ma se avessi le puntate che ancora non sono andate in Italia, e se volessi avere anche i sottotitoli, cosa dovrei fare? Beh, Lost è semplicissima. Basta connettere al sito www.cssubtitles.org, l'ho detto in modo molto italianizzato. Lì si può trovare una sezione Lost in cui vi sono tutti i sottotitoli in italiano e in versione originale, col quale poter vedere anche le puntate inedite in Italia, come le puntate della seconda serie. Quello che bisogna dire è che chiunque può farsi un CD-ROM con il proprio computer della serie e automaticamente il file con i sottotitoli in televisione farebbe vedere il sottotitolo come se fosse realmente sottotitolato da un professionista, o sbaglio? No, no, non sbaglio assolutamente, proprio così. Ecco, quello che mi interessa sapere... Il sottotitolo viene visualizzato sulla TV senza niente di particolare. Anche un bambino potrebbe farlo. Come noi quando guardiamo una serie straniera in una TV satellitare che c'è il sottotitolo in italiano. Ecco, il prodotto che fornite voi gratuitamente in rete permette di avere lo stesso servizio. Sì, esattamente lo stesso servizio. Adesso però quello che mi interessa è capire l'organizzazione come si muove, perché è un lavoro, io ho notato che sono fatti anche con grande mestiere, non sono improvvisati, sono dei sottotitoli a tutti gli effetti come li farebbe una grande televisione. Ecco, cosa c'è, una squadra di traduttori volontari o deve pagare delle persone lei? Assolutamente no, ci sono un sacco di team, così si chiamano, di squadre che attraverso il mio sito riescano a costruire questi sottotitoli assolutamente gratuitamente, nel senso che hanno trovato un posto, che è questo sito, in cui poter dare visibilità al loro prodotto, al loro hobby, e questo penso li renda molto contenti. Ecco, mi fa un esempio delle serie conosciute al pubblico italiano che voi avete già in anticipo e che di cui date i sottotitoli ancora prima che la serie appaia in Italia. Certamente, diciamo tutte le serie attualmente visibili negli Stati Uniti, che sono sempre un passo avanti a noi, hanno i sottotitoli anche in italiano, aggiornati praticamente ogni settimana in tempo reale. Dopo la messa in onda negli Stati Uniti ci sono anche i sottotitoli in italiano sul sito. Mi faccia qualche esempio, Alessio. Certamente. Lost, Smallville, Desperate Housewives, Room, di cui parlava prima, praticamente circa 3 mesi che ci sono tutti i sottotitoli della prima serie già completi, eccetera, eccetera, direi. Quindi viene uccisa l'equazione temporale rispetto alla possibilità di vedere un telefilm in Italia? Sì, anche perché, come ben sa lei, i telefilm in Italia sono un po' bistrattati, cioè nessuna rete punta molto sulle serie americane. Questo direi che, dal mio punto di vista, qualcosa di sbagliato, perché le serie americane spopolano tutto il mondo, solo in Italia non riescono a approdare con forza. Infatti Roma è andato malissimo in Italia. Esatto. Ha fatto il 10%, mi sembra, che è ridicolo rispetto al successo che ha avuto, ad esempio, negli Stati Uniti. Penso anche perché in Italia le reti televisive non diano abbastanza importanza. Addirittura Lost viene trasmesso con 3 episodi in una serata, praticamente. Uno incomincia alle 9 e guardarlo deve finire a mezzanotte, è una cosa impensabile. La ringrazio e la saluto, Alessio. Lasciamo al giudizio di chi ci ascolta questa passione così esagerata per le serie, per i telefilm stranieri, che porta a fare gratuitamente un lavoro che altrimenti costerebbe parecchio in termini di impegno economico. Buona giornata, Alessio. Buona giornata. Viene l'illuminazione e quindi cominciamo a parlare. Pronto, buongiorno, mi scusi. Purtroppo ho sentito solo l'ultima, la parte finale della sua trasmissione. Volevo sapere se era possibile conoscere il sito dove scaricare questi telefilm sottotitolati, dal momento che mio padre è un non udente e i programmi dedicati ai non udenti sono sempre molto limitati e potrebbe quindi essere questa un'occasione di svago per questa categoria di persone che ha questo tipo di problema. Questo era un aspetto che non avevamo valutato. Ieri, quando facevamo parlare Alessio, il capo dei sottotitolatori folli, non immaginavamo anche questo uso esteso del suo lavoro. Forse vale la pena che perda 2 minuti a descrivere di cosa si tratta, qual è il contesto. Innanzitutto il titolo ve lo leggo come è scritto, è www.cssubtitles.org, ve lo dico perché poi è difficile magari ricordarlo. Alessio, insieme ad altre persone, spontaneamente, come attività hobbistica, sottotitola tutte le serie dei telefilm americani. E lo fa perché? Lo fa perché, secondo lui, fa un'operazione meritoria per l'umanità, che vuole vedersi i telefilm in lingua originale e quindi può avere i sottotitoli che lo aiutino nella visione. Loro considerano un oltraggio, l'operazione scellerata viene fatta nel doppiaggio brutto, fatto male, dei film americani, soprattutto nel spezzettamento, nell'assemblaggio improprio che viene fatto di questi telefilm dalla televisione italiana. Ci sono molte cose da dire su questo che ieri ho lievemente glissato. L'acquisizione in realtà del film comporta alcune operazioni a volte non perfettamente legali. Funziona così: il telefilm va in America con un anno di anticipo rispetto a quanto vale in Italia. Il corrispondente maniaco del ragazzo italiano prende il telefilm e, dopo che l'ha visto, lo mette in rete. Se lo registra, lo mette in un computer che è accessibile a tante altre persone in tutto il mondo. Questa operazione già probabilmente lede il diritto d'autore di quelli che hanno fatto il telefilm, però lo fa, è come se lui avesse la sua videoteca di cassette personale, ce l'ha in casa e la mette a disposizione di altri. Vi dico esattamente come funziona, senza esprimere giudizio, fare le parti di l'uno o dell'altro. E quindi probabilmente altre persone che sanno come entrare nella sua bibliotechina vanno e prendono questi telefilm, se li guardano a casa propria, mettendoli a loro volta nelle loro biblioteche, aprendo l'apertura di queste discoteche, biblioteche, permettendo l'apertura ad altre persone. E questa è la rete, questo significa che in tutto il mondo tante persone hanno a disposizione questi telefilm. Quando un ragazzo italiano o un italiano vuole vederli, va a bussare nella discoteca del ragazzo americano e dice: oh, che belle, tutte le serie di telefilm che dovrei vedere fra un anno, me le guardo subito. Ma oltre a guardarsele e a mettere a disposizione di altri, ripeto, queste sono operazioni che vanno a seconda delle leggi e del paese in cui ci si produce uno di questi visionatori, ad infrangere i diritti d'autore. Quindi questo bisogna dirlo, che sono anche operazioni non legalmente accettabili. Però succede, accade, non si può fare a meno di considerare che l'era del digitale comporta anche questi rischi, che ci siano difficoltà nel definire i limiti della proprietà di un'opera quando l'opera è riproducibile in tante forme identiche. I ragazzi italiani fanno un'operazione in più che nessuno chiede loro: non solo mettono a disposizione degli altri questi telefilm, ma gli mettono i sottotitoli, facendo un'operazione difficile, complicata, anche importante.